Capitolo 8. La prima proposta di Anna. Il vecchio anno non se ne andò con un verde crepuscolo né con un tramonto di rose e oro. Si congedò invece con una burrasca di neve tra raffiche di vento. Era una di quelle notti in cui gli uragani si scatenano sui prati gelati, sui neri abissi e gemono fra le fronde come creature perdute, mentre la neve batte violenta contro i vetri tremolanti. Proprio quel genere di notte in cui la gente ama rincantucciarsi tra le coperte e godersi il calduccio, disse Anna a Jane Andrews, che era andata a trascorrere con lei il pomeriggio, rimanendo poi a dormire. Ma quando si furono infilate sotto le coperte nella stanzetta sopra il portico, Jane mostrò di non avere alcuna intenzione di stare in silenzio a godersi il calduccio. «Anna», disse solennemente, «ho qualcosa da dirti. Posso?» Anna si sentiva assonnata dopo il ricevimento offerto da Ruby Gillis la sera precedente. Avrebbe desiderato molto di più dormire che ascoltare le confidenze di Jane, che sicuramente l'avrebbero annoiata. Non aveva alcuna idea di quanto era accaduto. Con ogni probabilità anche Jane si era fidanzata. E si sussurrava che Ruby Gillis si fosse promessa al maestro di scuola di Spencervale, che aveva fatto strage di cuori femminili. «Presto sarò la sola ragazza non innamorata del nostro vecchio quartetto», pensò Anna nel torpore che precede il sonno. A voce alta disse «Certo!» «Anna», esordì Jane solennemente, «che ne dici di mio fratello Billy?» Di fronte a questa domanda, Anna annaspò e chiamò a raccolta i suoi pensieri sentendosi in crisi. Santo cielo, che cosa pensava mai di Billy Andrews? Non aveva mai pensato nulla dell'insipido, sciocco e perennemente sorridente Billy dalla faccia di luna piena. Forse qualcuno aveva mai pensato qualcosa di lui? «Io non capisco, Jane», balbettò. «Che cosa intendi dire esattamente? Ti piace Billy?» domandò brutalmente Jane. «Ma, oh sì, certo che mi piace», boccheggiò Anna, chiedendosi nel contempo se stava dicendo il vero. Sicuramente non le dispiaceva, ma l'indifferenza venata di degnazione con cui lo guardava, quando le capitava sotto gli occhi, poteva essere considerata un valido indice di gradimento. Che cosa cercava di dirle, Jane? «Ti piacerebbe per marito?» domandò calma Jane. Per sondare il problema dell'esatta opinione da lei nutrita su Billy, Anna si era messa a sedere sul letto. Ora cadde lunga distesa sul cuscino annichilita. «Marito di chi?» «Tuo, naturalmente», rispose Jane. «Billy vuole sposarti, è sempre stato pazzo di te. E ora che mio padre gli ha intestato la fattoria, non c'è più nulla a impedirgli di sposarsi. Ma lui è così timido che non osa chiederti se sei d'accordo, così ha incaricato me di farlo. Io non volevo, ma lui non mi ha dato pace finché non gli ho promesso che te l'avrei chiesto se ne avessi avuta l'occasione. Allora, che ne pensi, Anna? Era un sogno? Era uno di quegli incubi in cui ti ritrovi fidanzata o sposata con qualcuno che detesti o che non conosci senza la più pallida idea di come ciò sia avvenuto? No. Lei... Anna Shirley era lì, sdraiata e completamente desta, e Jane Andrews era accanto a lei, a proporle con calma la candidatura di suo fratello Billy. Anna non sapeva se piangere o ridere, ma non poteva optare né per l'una né per l'altra cosa per non offendere i sentimenti di Jane. «Io non posso sposare Billy, lo sai, Jane?» si sforzò di balbettare. «Un'idea simile non mi è mai venuta in mente, mai!» «Questo lo credo anch'io», concordò Jane. «Billy è sempre stato troppo timido per farti la corte, ma ora puoi pensarci su. Billy è un bravo ragazzo. Devo dirtelo, anche se è mio fratello. Non ha cattive abitudini. È un gran lavoratore, ti puoi fidare di lui. È meglio un uovo oggi che una gallina domani. Mi ha detto di dirti di stare tranquilla, che se proprio vuoi, è disposto ad aspettarti finché avrai finito l'università, anche se preferirebbe sposarsi in primavera, prima della semina. Sono certa che andrebbe bene per te, e tu sai, Anna, che io sarei felice di averti come sorella». «Oh, non posso sposare Billy», affermò Anna decisa. Aveva recuperato il suo sangue freddo e si sentiva persino un po' in collera. «Non ho bisogno di pensarci su, Jane. Non sento niente per lui in quel senso, e tu glielo devi dire». Sapevo che non saresti stata d'accordo, sospirò Jane, convinta di aver fatto del suo meglio. Ho detto a Billy che non aveva senso chiedertelo, ma lui ha insistito. Bene, hai preso la tua decisione, Anne, e ti auguro di non pentirtene mai. Jane parlò piuttosto freddamente. Non aveva mai dubitato che l'innamorato Billy non avrebbe avuto fortuna presso Anna e che lei non si sarebbe mai lasciata indurre a sposarlo. E tuttavia avvertiva un fondo di risentimento nei confronti di Anna Shirley, che dopo tutto era semplicemente un'orfana adottata senza amici né parenti. Come aveva potuto lei rifiutare suo fratello, uno degli Andrews di Avonlea? A volte l'orgoglio precede la caduta, pensò sinistra Jane. Anna, con la complicità del buio, sorrise all'idea di potersi pentire di non aver sposato Billy Andrews. «Spero che Billy non ci rimarrà male», disse gentilmente. Jane fece un movimento come se scuotesse la testa sul cuscino. «Oh no, non gli si spezzerà il cuore, Billy ha troppo buon senso. Gli piace moltissimo anche Nettie Blewett e mia madre la desidera come nuora più di chiunque l'altra. Lei è anche una buona massaia e un'ottima risparmiatrice. Sono certa che Billy, una volta sicuro che tu non lo vuoi, si prenderà Nettie. Per favore, non dirlo a nessuno, Anna». «D'accordo?» «No, di certo», rispose Anna, che non desiderava affatto pubblicizzare il fatto che Billy Andrews volesse sposarla, preferendola a conti fatti a Nettie Blewett. «Nettie Blewett! Ah! E adesso credo che sarebbe meglio andare a dormire», suggerì Jane. E il sonno giunse facile e rapido per Jane, ma sebbene per molte cose lei differisse da Macbeth, Jane aveva certamente contribuito a uccidere il sonno di Anna. Lambita da Damigella giacque, infatti, insonne sul cuscino, tutta presa da meditazioni che erano ben lungi dall'essere romantiche. Soltanto la mattina successiva ebbe infine l'opportunità di farsi una bella risata sull'intera faccenda. Quando Jane fu ritornata a casa, con ancora un pizzico di gelo nella voce e nei modi, perché lei aveva osato rifiutare in modo così ingrato e deciso di imparentarsi con la casata degli Andrews, Anna si ritirò nella stanzetta sul portico, chiuse la porta e finalmente scoppiò in una bella risata. «Se solo potessi dividere il mio divertimento con qualcuno», pensò. «Ma non posso. Diana è l'unica a cui vorrei parlarne, ma anche se non avessi promesso il silenzio a Jane, non potrei confidarle nulla. Riferisce tutto a Fred, so che lo fa. Bene, ho ricevuto la mia prima proposta. Sapevo che sarebbe successo un giorno o l'altro, ma non me l'aspettavo così presto. È terribilmente buffo, ma c'è anche una punta di amaro in fondo». Anna sapeva perfettamente in che cosa consisteva l'amarezza, sebbene non fosse capace di tradurlo in parole. In segreto aveva spesso sognato di quella prima volta. La prima volta che qualcuno le avrebbe chiesto di sposarla. Nei sogni, quel momento le era apparso dolce e romantico. Quel qualcuno sarebbe stato stupendo, con gli occhi scuri, un aspetto distinto e un'ammirabile eloquenza, sia che fosse il principe azzurro da sedurre con un sì, o uno cui esprimere in modo romantico un rifiuto vibrante di rimpianto, anche se definitivo. Qualora si fosse verificata la seconda ipotesi, il rifiuto sarebbe stato formulato così delicatamente da non poter essere che accettato. Lui si sarebbe allontanato dopo averle baciato la mano, esprimendole la propria inalterabile e imperitura devozione. E sarebbe stato sempre un dolcissimo ricordo di cui essere fieri, anche se un po' rattristati. E ora, questa emozionante esperienza di cui aveva sognato si era rivelata quasi grottesca. Billy Andrews aveva chiesto a sua sorella di avanzare la proposta invece sua, perché il padre gli aveva intestato una parte della fattoria. Oh. E se Anna non avesse voluto saperne, avrebbe provato con Nettie Blewett. Ah, oh, una bella storia romantica di amore e di vendetta. Anna rise e poi sospirò. Un suo sogno di fanciulla era stato cancellato per sempre. Era forse il primo anello di una catena nella quale tutto era destinato a diventare prosaico e banale? Capitolo 9. Un innamorato sgradito e un'amica gradita. La seconda parte dell'anno a Redmond passò in un batter d'occhio, veloce come la prima. «È davvero sfrecciata via e ne ho appena sentito il sibilo», diceva Phil. Anna ne assaporò con gioia tutte le fasi: la stimolante rivalità di classe, il formarsi e l'approfondirsi di nuove e vantaggiose amicizie, le allegre riunioni, gli incontri delle varie società di cui faceva parte, l'allargarsi degli orizzonti e degli interessi. Studiava con accanimento perché si era prefissa di vincere un'importante borsa di studio in letteratura inglese. Ottenerla avrebbe significato il ritorno a Redmond senza gravare sulle magre finanze di Marilla. Per questo Anna era decisa a vincerla. Anche Gilbert era tutto preso a conquistarsi una borsa di studio, ma riusciva a trovare il tempo per visitare frequentemente il numero 38 di St. John Street. Faceva da scorta fissa ad Anna in tutte le occasioni all'università e lei sapeva che i loro nomi venivano accoppiati nelle chiacchiere di Redmond. La cosa la faceva infuriare, ma non c'era scampo. Non poteva scaricare un vecchio amico come Gilbert, specialmente quando si faceva all'improvviso accorto e diffidente, come gli succedeva tutte le volte che nei paraggi si aggirava qualche giovane studente che sarebbe stato felice di prendere il suo posto accanto alla snella matricola dai capelli ramati, i cui occhi grigi splendevano come stelle della sera. Anna non era mai stata corteggiata da nugoli di vittime volontarie come quelli che si addensavano sul cammino trionfale di Filippa attraverso i Fresh, ma c'erano un ragazzo alto e magro dall'aria intellettuale, un tondo e allegro sophomore e un aitante e navigato junior che desideravano tutti bussare al numero 38 di St. John's per parlare con Anna di logie e ismi, non meno che di argomenti più futili, nel suo salotto imbottito di cuscini. Gilbert non li sopportava e stava perennemente allerta per non dare a nessuno il più piccolo vantaggio su di sé, pur badando bene a non lasciar trapelare sentimenti che dessero fastidio ad Anna. Con lei era tornato a essere il buon compagno dei tempi di Avonlea, così da poter contenere, senza destare sospetti, qualsiasi tentativo di seduzione fosse stato messo in atto da qualche ragazzotto innamorato. Come compagno, Anna lo giudicava onestamente insuperabile. Era indicibilmente felice, come ebbe modo di dire a se stessa, che lui avesse abbandonato ogni idea insensata, pur passando un mucchio di tempo a domandarsi come mai. Accadde però uno spiacevole incidente che le rovinò l'inverno. Charlie Sloane, seduto dritto come un fuso sui cuscini più teneramente amati dalla signorina Ada, domandò una sera ad Anna se voleva promettergli di diventare un giorno la moglie di Charlie Sloane. Poiché veniva dopo la domanda per procura di Billy Andrews, la dichiarazione del giovane non produsse in lei lo shock che le avrebbe altrimenti procurato, ma fu senza dubbio un'altra delusione cocente. Era anche stizzita, poiché riteneva di non aver mai offerto a Charlie nemmeno il più piccolo appiglio che giustificasse il suo comportamento. Ma che cosa ci si poteva aspettare da uno Sloan? Come si sarebbe chiesta con aria sprezzante la signora Rachel Lynde. L'intero atteggiamento di Charlie, il tono, l'espressione, le parole, francamente puzzava di slonitudine. Lui era convinto di tributarle un grande onore, su questo non c'era dubbio alcuno. E quando Anna, insensibile a tale omaggio, lo rifiutò, sia pure con la maggior delicatezza e considerazione possibile, perché persino uno Sloan aveva dei sentimenti che non potevano essere ingiustamente feriti, egli tradì ancor più la propria slonitudine. Charlie non accettò affatto il rifiuto con lo stesso garbo degli immaginari corteggiatori di Anna e disse due o tre cose assai sgradevoli. Anna allora si infiammò, ribellandosi, e replicò con un discorsino tagliente che riuscì a scalfire anche la scorza di slonitudine che proteggeva il buon Charlie, pungendolo nel vivo. Infine, lui afferrò il cappello e si lanciò fuori dalla casa con il viso paonazzo e Anna volò di sopra. Inciampò due volte nei cuscini della signorina Ada, posti sulla sua strada, e due volte cadde a terra e infine si gettò sul letto, piangendo lacrime di umiliazione e di rabbia. Si era abbassata fino a litigare con uno Sloan. Era mai possibile che uno Sloane esercitasse tanto potere su di lei da farla andare in bestia? Oh, quella sì che era degradazione, peggiore ancora che essere rivale di Nettie Blewitt. Mi auguro di non vedere quella orribile creatura mai più, singhiozzò vendicativa, con il volto affondato tra i cuscini. Ma non poté evitare di vederlo ancora, anche se l'offeso Charlie fece in modo di non trovarsi mai troppo vicino a lei. I cuscini della signorina Ada furono salvi per l'avvenire dallo scempio cui lui li aveva sottoposti. Quando Charlie incrociava Anna per la strada o per i corridoi di Redmond, il suo saluto era freddo come il ghiaccio. I rapporti tra i due vecchi compagni di scuola restarono tesi per quasi un anno, ma poi, quando Charlie trasferì i suoi offesi sentimenti su una rotonda, rosea, snob, piccola sofomorda agli occhi azzurri, che li apprezzò come meritavano, allora perdonò Anna e accettò di comportarsi civilmente con lei. Facendole capire con le sue maniere condiscendenti quanto aveva perduto. Un giorno Anna si precipitò nella camera di Priscilla. «Leggi questa!» gridò sventolandole una lettera sotto il naso. «È di Stella! Verrà a Redmond l'anno prossimo! Ti sorride l'idea? Penso che sia un progetto splendido, se solo possiamo esserle d'aiuto a realizzarlo. Pensi che ce la faremo, Priscilla?» Ci riusciremo meglio quando sarò venuta a capo di questo, disse Priscilla, mollando il vocabolario di greco e afferrando la lettera. Stella Maynard era stata una delle sue compagne alla Queen's Academy prima di dedicarsi all'insegnamento. Ma adesso mi sono stancata, cara Anna, scriveva. L'anno prossimo voglio andare all'università, poiché ho frequentato il terzo anno a Queen's, posso essere iscritta come sophomore. Non ne posso più di insegnare in campagna in una scuola fuori mano. Un giorno scriverò un trattato su le delizie di una maestra. Sarà uno straziante squarcio di realismo. L'impressione dominante è che noi viviamo una vita comoda e che non abbiamo altro da fare che riscuotere lo stipendio trimestrale. Il mio trattato dirà tutta la verità sul nostro conto. Ecco, se passasse anche una sola settimana, senza che qualcuno mi dicesse che sto facendo un lavoro leggero per una paga pesante, beh, penso che mi preparerei in pompa magna ad essere assunta in cielo immediatamente e senza indugio. Allora tu guadagni facilmente il tuo stipendio, mi dirà invece con condiscendenza qualche contribuente. Tutto quello che hai da fare è sederti e ascoltare le lezioni. Una volta mi mettevo a discutere, ma adesso mi sono fatta furba. I fatti sono inoppugnabili, ma come qualcuno ha avuto modo di dire con grande accortezza, lo sono anche gli errori, e non meno di certo. Così adesso mi limito a sorridere con aria sprezzante in un silenzio eloquente. Ora ho 9 classi nella mia scuola e devo insegnare un po' di tutto, dai lombrichi al sistema solare. Il mio allievo più piccolo ha 4 anni e sua madre me l'ha mandato per toglierlo dalla strada, e il più grande 20. Gli è venuta improvvisamente l'idea che sarebbe stato più facile venire a scuola per ricevere un'educazione che non sappare la terra. Ah, nel disperato tentativo di stipare ogni sorta di informazioni nelle 6 ore giornaliere, non mi stupirei se i ragazzini si sentissero come quel bambino che era stato portato al cinematografo. Devo vedere quel che viene dopo prima di capire quello che viene prima. Si lagnò il ragazzino. E io mi sento come lui. E i biglietti che ricevo, Anna. Ah, la mamma di Tommy mi scrive che suo figlio nel programma di aritmetica non è avanti come dovrebbe. Lui è solo alle sottrazioni, mentre Johnny Jackson è alle frazioni, e Johnny non è nemmeno la metà intelligente del suo bambino, e lei non riesce proprio a capire. E il padre di Susie vorrebbe sapere perché Susie non sa scrivere una lettera senza ficcarci una quantità inverosimile di errori. E la zia di Dick vuole che lo cambi di posto, perché il suo attuale vicino di banco è quel cattivo ragazzo di Brown che gli insegna le parolacce. Ah, per quanto riguarda la parte finanziaria, ma non intendo entrare in questo discorso. Se gli dèi vogliono distruggere qualcuno, lo faranno certo diventare maestro di campagna. Bene, mi sento meglio dopo questo sfogo. In fondo ho vissuto bene questi anni, ma vengo a Redmond. E ora, Anna, ti espongo il mio piano. Sai che sono in pensione da 4 anni e ora sono stanca. Non ho voglia di starci ancora per 3 anni. Allora, perché non possiamo metterci insieme, tu, Priscilla e io, e affittare una casetta a Kingsport? Penso che sarebbe anche la soluzione più economica. Naturalmente dovrebbe esserci qualcuno che pensi alle faccende domestiche e io quel qualcuno ce l'ho pronto. Non mi hai mai sentita parlare di mia zia Gemessina? Nonostante il suo nome, è la zia più dolce che sia mai esistita. Non è colpevole di portare un nome del genere. L'hanno chiamata Gemessina perché suo padre, il cui nome era James, morì in mare un mese prima che lei nascesse. L'ho sempre chiamata zia Gemsy. Bene. La sua unica figlia si è sposata da poco ed è partita per le missioni. Zia Gemsina è rimasta sola in una grande casa di campagna, in cui si sente maledettamente in crisi. Sarebbe disposta a venire a Kingsport e a prendersi cura della casa per noi, se la volete. Sono sicura che piacerebbe a tutte e due. Più penso a questa idea e più mi piace. Ci sentiremmo libere e felici. Se il mio progetto vi attira, tu e Priscilla, visto che siete sul posto, potreste dare un'occhiata in giro per vedere se trovate qualcosa da affittare per questa primavera. Che ne dite? Sarebbe meglio non rimandare tutto all'autunno. Se potete trovare una casa ammobiliata, tanto di guadagnato. E altrimenti potremo sempre frugare nelle soffitte dei nostri parenti e amici, no? In ogni caso, decidete il più presto possibile e scrivetemi così zia Gemsina potrà sistemare le sue cose per l'anno prossimo. Mi sembra un'idea stupenda, disse Priscilla. Anche a me, concordò Anna sprizzando gioia. È vero che viviamo in una pensione graziosa e confortevole, ma a conti fatti non è come vivere a casa propria. Dai, diamoci da fare a cercare casa in affitto prima dell'inizio degli esami. Temo che non sarà facile trovare qualcosa di davvero adatto, mise le mani avanti Priscilla. Non mi aspetto troppo, Anna. Le case belle, situate in belle zone, con ogni probabilità sono state già affittate prima che noi ci muovessimo. Dovremo verosimilmente accontentarci di qualche squallida casetta situata in una via sconosciuta alla buona società, dove la vita che viviamo al suo interno sia tale da riscattare l'esterno. Andarono perciò in cerca di case da affittare, ma soltanto per scoprire che ciò che cercavano era ancora più difficile da reperire di quanto Priscilla avesse previsto. Di case ce n'erano in abbondanza, ammobiliate e non, ma una era troppo grande, l'altra troppo piccola, una troppo costosa, l'altra troppo lontana da Redmond. Ah, venne il tempo degli esami e passò. Giunse l'ultima settimana dell'anno accademico e ancora la loro casa dei sogni, come Anna la chiamava, rimaneva un castello in aria. Penso proprio che dovremmo rinunciarci fino a quest'autunno, disse stancamente Priscilla mentre passeggiavano nel parco in una bella giornata di aprile, ventilata e azzurra, in cui le acque del porto spumeggiavano splendenti sotto la nebbiolina che alitava sul mare. Magari allora troveremo un'occasione. Altrimenti andremo in pensione tutte insieme. Comunque non ho voglia di preoccuparmene adesso, rischiando di rovinare questo stupendo pomeriggio, disse Anna, guardandosi attorno deliziata. L'aria fresca e frizzante era densa del profumo di pino e il cielo sopra di loro era di un chiaro cristallo azzurrato come un'immensa coppa rovesciata. Oggi la primavera mi canta nel sangue, mentre respiro le lusinghe d'aprile aleggianti nell'aria. Oh, Priscilla, ho delle visioni e dei sogni incantevoli. Deve essere perché è vento dell'ovest. Io adoro il vento dell'ovest. Non ti pare che canti inni di speranza e di felicità? Quando invece soffia il vento dell'est, penso sempre a tristi piogge tamburellanti sui cornicioni e a onde meste su una spiaggia grigia. Sono sicura che da vecchia avrò i reumatismi con il vento dell'est. E non è esaltante deporre le pellicce e tutti gli orpelli invernali per uscire come adesso in abbigliamento primaverile? Rise Priscilla. Non ti senti tutta rimessa a nuovo? Tutto è nuovo in primavera, disse Anna. Le stesse primavere sono nuove. Nessuna assomiglia a un'altra. C'è sempre, in ogni primavera, una dolcezza particolare. Guarda com'è verde l'erba intorno al piccolo stagno e come si stanno schiudendo le gemme del salice. E gli esami sono finiti e venerdì prossimo ci sarà la riunione finale e tra una settimana saremo a casa. Mi fa piacere, disse Anna con aria sognante. Ci sono tante cose che voglio fare. Voglio sedermi sui gradini del portico interno e sentire alitare la brezza sui campi del signor Harrison. Voglio andare a caccia di felci nel bosco stregato e raccogliere violette nella valletta delle viole. Ricordi il giorno del nostro favoloso picnic, Priscilla? Io volevo sentire il canto delle rane e il sospiro dei pioppi e ho imparato ad amare anche Kingsport e l'anno prossimo ci ritornerò volentieri. Ma se non vinco la borsa di studio, non credo che potrò essere di nuovo qui. Non avrei il coraggio di gravare sulle magre finanze di Marilla. Ah, se solo potessimo trovare una casa, sospirò Priscilla. Guarda, Kingsport, Anna. Case, case, case dovunque, non una per noi. Smettila, Pris, il meglio deve ancora venire. Come l'antico romano, noi troveremo una casa o ne costruiremo una. In un giorno come questo non esiste il vocabolo fallimento nel mio brillante dizionario. Indugiarono nel parco fino al tramonto, assaporando lo struggente miracolo, la gloria e la meraviglia del tempo primaverile, e quindi tornarono a casa come al solito attraverso Spofford Avenue per avere la gioia di dare uno sguardo al posto di Patty. Mi sento come se qualcosa di meraviglioso stesse per accadere. Mi sento uno strano formicolio nei pollici, disse Anna mentre risalivano il declivio. È una deliziosa sensazione da fiaba. Oh no! Priscilla Grant, guarda dove guardo io e dimmi se è vero o se è soltanto un sogno. Priscilla guardò. I pollici e gli occhi di Anna non avevano mentito. Sull'arco sovrastante il cancello di Patty's Place pendeva un piccolo e modesto cartello, diceva affittasi ammobiliata, per informazioni rivolgersi all'interno. Priscilla, domandò Anna in un soffio, credi sia possibile per noi affittare Patty's Place? No, penso proprio di no, dichiarò Priscilla. Sarebbe troppo bello se fosse vero, le fiabe non si avverano ai giorni nostri. La delusione sarebbe troppo cocente e difficile da sopportare. Chiederanno certo più di quanto possiamo spendere. Ricorda che siamo in Spofford Avenue. Comunque tentiamo, disse Anna risoluta. Stasera è troppo tardi per chiedere informazioni, ma verremo domani. Oh, Pris, che sogno poter avere questo posto delizioso! Io ho sempre saputo che il mio destino era legato a Patty's Place fin dalla prima volta che l'ho visto.